Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 10 febbraio, buongiorno di nuovo a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Io sono sempre Caterina Bombarda di Liberi Dentro e Duradio e qui con me c'è Ignazio De Francesco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Caterina e buongiorno a tutti, ben svegliati. C'è una giornata buona per tutti, con le difficoltà della vita ristretta, ma dai, con una felicità che sgorga nel cuore. Sono le 9, infatti, e noi siamo in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 e alle 10.30 siamo sul canale 636 di Rete Teletricolore, dove potete vederci a video e non soltanto in voce in radio. E ovviamente parliamo alla città di Bologna, ma anche a tutta la regione Emilia-Romagna, questo lo tendiamo sempre a sottolineare, e questa è la quarta settimana di Liberi Dentro e sono già partiti i nostri laboratori, che trovate sempre il pomeriggio, sempre sulla televisione. Mi raccomando, ascoltateli, guardateli. E oggi, Ignazio, io apro con sempre una notizia che ci riporta dalla cronaca bianca e parla di arte, ma è connessa molto col mondo penitenziario, perché è una storia di vita. Parla di questa Nicole Flatwood, che è un'insegnante di storia dell'arte americana, che ha pubblicato una ricerca che è diventata un libro e una mostra a New York, questa ricerca chiamata Marking Time, dove c'è un importante focus sulla fotografia legata al mondo del carcere. Perché? Lei ritiene che le foto siano un mezzo molto potente per mantenere viva la relazione tra detenuti e i loro cari. Perché la foto? Perché naturalmente in carcere non si possono fare le videochiamate, se non adesso con il Covid, che è entrata questa importante novità delle videochiamate per mantenere un contatto, ma prima non si poteva fare. E quindi la fotografia restava comunque il mezzo, il modo per rimanere in contatto, almeno visivo, per ricordarci la faccia di una persona a noi cara. Ma la storia veramente interessante di questo, che traggo da questo articolo, è che lei ha avuto l'idea di questa mostra, di questo libro, perché a lei è capitata una cosa molto simile. Suo fratello, Allen, fu arrestato con l'accusa di omicidio, per cui lei stessa si ritrovò a vivere in una situazione in cui non poteva vederlo, e quindi ha pensato di fare qualcosa per tutti, cioè per rendere questo problema è evidente per tutti quanti. Quindi la ringraziamo, sarebbe interessante vederla, questa mostra. Ma Ignazio, siccome stiamo parlando da alcuni giorni di Tunisia e siamo tutti prigionieri, ma ci sono anche gli stati prigionieri, no? Esatto, esatto. Bisogna dire qualche cosa a chi ci ascolta, in particolare anche poi ai ragazzi, le persone della Tunisia, su quello che sta avvenendo nel loro paese, nel senso che c'è un'emergenza Covid molto, molto forte. Abbiamo preso questo articolo dalla Presse, che è un giornale in lingua francese, un giornale tunisino, che racconta del giorno del mercoledì 13 gennaio, che è stato terribile, nel senso che il governo aveva deciso il coprifuoco generale per tentare di limitare la diffusione del contagio. Dice che si doveva partire dalla sera o dal mattino dopo, dice che c'è stato un caos per la strada, tutti andavano nei negozi a comprare da mangiare, una cosa tremenda. E poi nei giorni seguenti la chiusura delle grandi attività e le scuole anche hanno chiuso, e quindi questo ha aumentato in un paese che è già molto segnato dal problema, ecco, dalla ripartenza, dalla mancata ripartenza della primavera araba, si è aggiunta anche questa cosa, e in particolare il racconto dei poveri, i poveri che comunque si riversavano in tutte le strade della città, ovviamente senza mascherina, poveretti. Quindi dice che tutte le vie delle grandi città erano piene di poveri scesi in piazza per chiedere un tozzo di pane, un aiuto. Quindi è un momento in cui dobbiamo stringersi di solidarietà tra tutti noi. L'articolo riporta una frase famosa di John Kennedy negli anni 60, durante un periodo di crisi anche negli Stati Uniti, diceva: non chiedetevi sempre cosa lo Stato può fare per voi, ma quello che voi potete fare per lo Stato. Non è uno scaricabarile, ma per dire ci sono dei momenti in cui tutti dobbiamo tirarci sulle maniche. Certo, il cittadino contribuisce al benessere del bene comune, questa è una cosa molto importante che ci ricorda tutti i giorni anche il nostro Papa, Papa Francesco, che ci tengo a ricordarlo perché comunque al di là di tutto è una persona, un personaggio importante per tutte, anche per tutte le fedi, per i suoi messaggi di pace che continuamente manda a tutti quanti, ricordando l'importanza anche del dialogo interreligioso. Ma ora, Ignazio, è il momento della nostra pausa musicale e ci spieghi perché hai scelto questo brano. Farida Latrash, allora Farida Latrash era noto per la sua voce, forse già avete cominciato a sentire, inconfondibile, con una capacità melodica pazzesca e poi con dei testi bellissimi. Il brano di questa volta è Vorgosner Yalemona, sopra i tuoi rami o albero di limone scrivo con le lacrime dei miei occhi. Sempre poetico. Storie d'amore, sì. Musica. Eccoci sulle note musicali di Farid Atrash, continuiamo raccontando un po' sempre la nostra cronaca bianca dalla nostra nazione. Ecco, i dati che ci giungono sono sempre quelli sulla priorità del vaccino per le persone detenute, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane. Leggo l'articolo da tuttosanità.com e il titolo è Vaccinazione Covid in carcere prioritaria per personale e per detenuti. Perché? Perché i detenuti sono da considerarsi nella fascia della popolazione più fragile sotto il profilo sanitario. Lo abbiamo ricordato il motivo, vivono ammassati in condizioni igienico-sanitarie che non sono proprio le migliori, quindi questo favorisce il circolare del vaccino con grande velocità. E il presidente del SIMPSE, Luciano Lucania, da questa considerazione dice che la vaccinazione è prioritaria anche del personale, quindi anche gli agenti fanno un lavoro rischiosissimo entrando in carcere, entrando e uscendo continuamente, avendo a che fare anche con le proprie famiglie. E quindi dice che è molto molto importante garantire questo diritto al vaccino prioritario sia per i reclusi sia per chi opera all'interno del carcere. E il tema adesso è molto dibattuto perché naturalmente vaccino sì, vaccino no è anche una libertà personale, no? Però a fine dicembre abbiamo visto che c'è stata un'interrogazione parlamentare molto urgente firmata dalla senatrice a vita Liliana Segre e che poi il 12 gennaio si è aggiunta anche a una mozione al Senato con oltre 20 firmatari per chiedere questa cosa, quindi c'è una mobilitazione molto grossa anche a livello politico, ma anche perché, Ignazio, pensa, la prevenzione non è soltanto per questo virus, ma vale anche su altri fronti, altri virus, altre malattie che purtroppo ci sono in carcere, pensiamo all'HCV, l'HIV, quindi Il carcere è serbatoio, purtroppo, per le condizioni che ci sono di queste malattie e quindi rappresenta infatti una delle cosiddette key populations, il carcere per questo tipo di malattie, di diffusione di malattie, e quindi operare ora sul coronavirus significherebbe garantire un welfare anche per queste altre malattie, purtroppo. Ma adesso veniamo. Giustissimo, giustissimo. Io direi che in questo la nostra equipe sanitaria, Agnese Drusiani e la Nadia, Assolutamente. ecco, faranno molto per questa trasmissione. Sì, io Assolutamente. vorrei dire, dal mio contributo del Galateo arabo, ecco, tu hai toccato un tema fondamentale, lo vedremo, il diritto alla salute. La salute in Italia è un diritto costituzionale, ma il diritto è anche il diritto alla libertà religiosa. Abbiamo iscritto nella nostra Costituzione, articolo 8, articolo 19, e sentite che bello l'articolo 6 della nuova Costituzione della Tunisia. Ad-dawla ra'iyatun lid-din, kafila li hurriyat al-mu'taqad wad-damir wa mumarasat ash-sha'ar ad-diniyya. ضامنة للحياد المساجد ودور العباد في توظيف الحزب. Allora, lo Stato ha cura, si prende cura della religione, garantisce la libertà di coscienza e di credo, il libero esercizio dei culti e la neutralità delle moschee, dei luoghi di culto da ogni strumentalizzazione partigiana, dice così, o politica. Quindi è una cosa importantissima questa che viene detta, la libertà di coscienza, Hurriyatud Damir, la religione la scelgo io, e poi anche la libertà di espressione, non solo di credo, non solo credo, ma mi ritrovo con gli altri per pregare. Questo in Italia è una grande battaglia che noi dobbiamo fare per il diritto dei musulmani e di tutti di poter avere luoghi decenti per pregare. Però, nello stesso tempo, l'altro lato della medaglia, molto importante, e cioè bisogna evitare che i luoghi di culto siano utilizzati per tawsif al-hizbi, cioè che sono strumentalizzati per motivi che non sono quelli del culto di Dio, e quindi per Infatti, fare della politica. Ignazio, facciamo una disambiguazione. Delle volte quando si sente parlare dell'Italia come stato aconfessionale, viene un po' il terrore. A me è capitato quando andavo a fare laboratori di diritto in carcere con i detenuti di varie culture, quando dicevo l'Italia è uno stato aconfessionale, sembrava quasi che non avessimo una fede, non avessimo un credo. Invece non è così. Aconfessionale nel senso che non c'è una religione di Stato, ma questo per permettere a tutti le religioni di coabitare nello stesso stato. Quindi questo ha un grande senso di fratellanza, vero? Di solidarietà, di Certo. sostegno l'uno con l'altro e di conoscenza. E adesso però Bene, è cosa il ci fai momento. ascoltare allora? Tu cosa ci fai ascoltare? Io no, è vero, tocca a me stavolta, è vero, hai ragione, Tocca a perché io te. ho scelto un bellissimo brano di Fabrizio De André. Siccome abbiamo parlato fino ad ora di libertà in tutti i modi possibili, adesso di libertà di credo, ho toccato questo brano che si chiama Se ti tagliassero a pezzetti, ed è un brano del 1981. E che cos'è che se si tagliasse a pezzetti? La signorina libertà, signorina fantasia, dice De André. Che cosa succederebbe se venisse tagliata a pezzetti? Vediamo, ascoltiamo. Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla, rosa di rame, m'hai ballato così a lungo, lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino. Alla fine siamo caduti sopra il fieno. Persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco. E rieccoci su Liberi Dentro, sulle note musicali del secondo brano di questa mattina. Siamo con un ospite che avete già visto, già conosciuto. Lei è Agnese Drusiani e lavori Agnese dal 2019 all'interno dell'equipe sanitaria della Dozza. E tu ti occupi di promozione della salute sempre all'interno della Dozza. E con te abbiamo pensato di fare questa rubrica sempre dedicata alla promozione della salute e per presentare servizi sanitari e soprattutto a chi ora è dentro e ha bisogno di un inquadramento su quello che sono i propri diritti sanitari all'interno dell'istituto di pena, lo può fare. Ricordiamo che la ASL è entrata all'interno della casa circondariale della Dozza come servizio sanitario regionale dell'assistenza sanitaria dal 2009, dopo il DPCM dell'anno precedente. E la domanda un po' che ti volevo fare, anche per la nostra cittadinanza bolognese che ci ascolta, è come funziona questo servizio sanitario all'interno del carcere particolare, insomma. Allora, intanto ciao Caterina e ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di rispondere proprio sul funzionamento, ci tengo a ricordare che questo passaggio di funzioni che c'è stato dopo il DPCM del 2008 ha previsto che ovviamente alle persone dentro al carcere vengano garantite le stesse cure, lo stesso accesso alle cure dei cittadini che ci sono sul territorio. E questo viene garantito proprio dal fatto che è lo stesso servizio sanitario poi del territorio a essere all'interno del carcere stesso. E quindi questo che cosa significa? Che c'è un'intera equipe sanitaria dedicata, composta da diversi professionisti. Ci sono i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, ci sono medici specialisti, ci sono come psichiatri e medici del CERT, ma come anche altri specialisti che vengono a portare le loro prestazioni all'interno del carcere. Ci sono infermieri, ci sono OSS, ci sono educatori professionali nello specifico, ci sono io, ci sono i tecnici di riabilitazione psichiatrica, quindi comunque siamo sicuramente un'equipe molto, esatto, molto ricca, cioè, anche un'equipe. Solo questa lista, esatto, basta pensare la quantità di personale e di professionalità, esatto, coinvolte. Esatto, e che garantisce comunque un'assistenza sulle 24 ore, nel senso che c'è sempre qualcuno dentro. Ci sono attività durante la mattina specifiche di ambulatorio, ad esempio, come se uno fosse sul territorio col proprio medico di base, per intenderci, e poi dopo ci sono le garanzie durante il pomeriggio e la notte dell'accesso alle cure, sia per le urgenze ma anche per continuare, ad esempio, a fare la terapia per le persone che lo necessitano. E quindi questo, come dire, appunto, garantisce la continuità assistenziale per tutte le persone che ci sono dentro. Ecco. Certo, certo. Infatti lo abbiamo ricordato più e più volte qui su Eduradio che il carcere è un po' il quartiere della nostra città, un po' per le nazionalità coinvolte, ma anche per i numeri che purtroppo, lo sappiamo, per i dati che abbiamo poi a livello poi nazionale sono abbastanza sovrabbondanti per le carceri, ma a noi piace considerarlo a tutti gli effetti un quartiere vero e proprio per creare un ponte tra noi e loro, perché non ci sono cittadini di secondo livello, ma siamo tutti cittadini. Poi ci sono condizioni diverse per essere cittadini, sì, in questo momento. Sì, sì, siamo alla nostra pausa musicale, quindi chiedo sempre a te un consiglio da dedicare ai nostri ascoltatori. Ok, allora io avrei pensato alla canzone, al brano Fast Car di Tracy Chapman. Perfetto, ascoltiamola. Mm-hmm. get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. E sulle note del brano musicale di Tracy Chapman, Fast Car, adesso volevo chiederti, siccome abbiamo parlato in generale del servizio sanitario all'interno della dozza, volevo chiederti come si accede ai servizi sanitari dall'interno del carcere. Questa è una domanda molto bella, parto un po' dall'inizio, nel senso che appena una persona viene portata all'interno, quindi giunge all'interno dell'istituto di pena, insomma, esatto, per la prima volta, ovviamente viene immediatamente visitato e dopodiché vengono avviati ovviamente tutti i controlli di, come dire, di screening che vengono fatti all'inizio. Quindi la persona fin dall'inizio è presa in carico, ovviamente. Vengono fatti controlli di screening per certe malattie infettive, mm-hmm. Vengono fatti anche delle richieste alla persona rispetto alla sua presa in carico, quindi se una persona che anche fuori aveva una problematica psichiatrica può essere preso in carico dal servizio specialistico della psichiatria, e la stessa cosa vale anche per il tossicodipendente, ma magari avremo modo di entrare un po' più nel merito e più avanti. Molto bella questa cosa, perché viene mantenuta una storia clinica della persona in qualunque posto si trovi. Certo, assolutamente. E questo vale per tutte questa tipologia comunque di patologie, ecco. Dopodiché, come tutti, poi molti imparano, l'accesso, diciamo, nella pratica avviene semplicemente, diciamo, la visita medica avviene la mattina segnandosi con l'infermiere quando passa. E dopodiché uno viene chiamato a visita medica, in maniera direi molto semplice e diretta, per cui il medico di medicina generale visita per qualsiasi problematica e dove ci fosse bisogno di un intervento specialistico segnala e gli specialisti interni ovviamente poi dopo intervengono ed effettuano le visite ed eventualmente la presa in carico. In tutto questo c'è il fondamentale lavoro degli infermieri che quotidianamente si occupano della gestione e somministrazione della terapia e della raccolta dei bisogni di tutte le persone che sono all'interno, ecco. Ovviamente chiariamo per tutti i nostri ascoltatori che questi servizi sanitari alla persona, quando tu dicevi inizialmente al primo ingresso c'è tutta una routine di visite anche sanitarie, era valido prima del Covid, cioè questo come base, ora sarà ulteriormente sì. Aumentata sia la mole di lavoro per voi che la casistica poi di persone. Assolutamente, sì anche perché ovviamente in questo momento noi dobbiamo verificare che le persone quando entrano non siano positive per poterle poi dopo mandare in socialità, quindi comunque c'è anche tutto il controllo rispetto alla gestione del Covid per forza di cose. E questo significa comunque portare anche l'assistenza in maniera più ravvicinata e più frequente, chiaramente, perché se le persone hanno poi necessità, hanno più bisogni, si ammalano, poi può succedere di Covid, chiaramente, e bisogna essere ancora più presenti di prima. Grazie Agnese, grazie di tutto, ci rivediamo con te la prossima settimana e l'ultimo brano di oggi è Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa. Ciao, bello, a presto. Grazie, ciao. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi. Ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare. Ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito fra i miei desideri. La la, tu che sei il sogno più grande fra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira. Siamo sempre arrivati ai saluti di fine puntata dopo aver fatto un po' il punto sulla salute con la nostra Agnese Drusiani. Vi ridò appuntamento a oggi pomeriggio con i nostri laboratori di Liberi Dentro, con sempre la promozione della salute a cura dell'equipe sanitaria del carcere, sempre condotta da Agnese, una puntata sulle patologie croniche, la loro rilevazione e gestione. E scriveteci all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna, oppure alla nostra email liberidentro.eduradio@gmail.com. A domani, ciao!